sì, è il momento dei liberi consigli per il fine settimana, il momento del sabato pomeriggio di Radio 24, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, nelle nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma il nostro tutorial per un bel weekend. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, sempre in diretta, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia appunto fino alle 18, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e anche il mio account di Twitter @MartaCagnola e l'hashtag sempre per chi usa Twitter. Il sabato del villaggio è un po' lungo, quindi come sempre usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Da questa puntata però attenzione, perché vi regaliamo anche i biglietti per il nuovo tour di Enrico Ruggeri. Tra poco vi darò tutte le indicazioni, vi dico solo state pronti con il telefonino. Tra poco, per sapere come avere i biglietti per il tour che parte prestissimo del nostro Enrico Ruggeri, sono molto molto curiosa. Intanto però andiamo a scoprire insieme i temi della prima ora che passeremo insieme al sabato del villaggio. Un colpo al cuore per le adolescenti, lo abbiamo letto tutti questa settimana, lascia uno degli One Direction. Quindi parleremo di band, di boy band, di oggi e di ieri. Ovviamente anche le tecnologie con Enrico Pagliarini, d'attualità le app di live casting. Siamo tutti in diretta video. Scopriamo poi come e perché. Tanto tanto cinema con tutte le novità nel weekend, ma subito una serie TV, un libro, riflessioni e dibattiti. Torna di moda un intero decennio. Quando si sta male bisogna bere bene. Tanto lo so che alla fine me la bevo da sola. Devi andare, no? Un brindisi lo posso fare. Quel mio amico ha confermato il contratto. E cosa c'è? Secondo te io mi diverto a rispondere alle telefonate in diretta? Guarda che io non voglio essere una fra le tante. Io voglio essere come la Cuccarini. La chiamata degli italiani. Cosa ridi? Cosa vuoi, buona domenica? A fare cosa? Lì c'è già lei. Voglio domenica in. Hai sempre detto che avresti fatto qualsiasi cosa per me. Fallo. Va bene. Ebbene, hanno parlato tutti questa settimana. Questo era un brevissimo estratto dalla prima puntata di 1992, la serie televisiva che è andata in onda su Sky Atlantic e su Sky Cinema. Sono andate in onda le prime due puntate, i primi due episodi. Una storia che si svolge sullo sfondo di Tangentopoli, 1992, tra inchieste e storie di vita privata. In questo periodo si parla tantissimo di quegli anni. Abbiamo parlato anche nelle scorse puntate con Alessandra Tedesco del nuovo libro di Umberto Eco, numero zero, che proprio rievoca quegli anni. Ma perché non ne ha parlato il cinema, ad esempio? Ne ha parlato invece una serie televisiva. Lo ha chiesto la nostra Alessandra Schepisi, che ha incontrato il protagonista di 1992, ma anche colui che l'ha ideata, Stefano Accorsi. Ecco cosa ha raccontato Stefano Accorsi ad Alessandra Schepisi. Singolare la TV prima del cinema, diciamo? No, anche perché negli ultimi anni la televisione, a partire da HBO, i Sopranos, che è un po' la genesi della nuova serialità mondiale, ci ha abituato ad affrontare le tematiche del mondo in un modo completamente diverso e spiazzante. Sky in più in Italia, dopo aver fatto Romanzo Criminale, Gomorra, cioè ha fatto davvero delle serie potenti. Non mi stupisce che è chiaro che un prodotto come 1992, una serie come 1992 è molto più nella linea editoriale di Sky che non della Rai, ma non perché non ci sia la volontà di raccontare il proprio paese in Rai, anzi lo fanno da decenni, lo fanno con delle grandi serie, personaggi storici, personaggi di fantasia. Credo però che una serie come 92, che mescola realtà e finzione, o che entra in questo modo nella vita politica della nostra storia recente, forse è più nei geni di una rete come Sky, che ha anche, e questo è importante dirlo, non è una TV generalista. Senti, che valore aggiunto invece ha una serie con 10 episodi piuttosto che un film? Beh, intanto guarda, eravamo partiti che voleva raccontare gli ultimi 20 anni di storia della politica italiana, della nostra politica, della nostra storia repubblicana recente, la Seconda Repubblica. Ci siamo concentrati sul 92, però appunto questo è l'inizio di una trilogia, l'idea è fare 92, 93, 94, quindi quando c'è un progetto così vasto la serialità è perfetta. Noi raccontiamo in 10 episodi 10 mesi, cioè anche numericamente sono 10 ore di narrazione. È chiaro che hai molto più tempo a disposizione anche per quello che riguarda tematiche, proprio l'attualità, i fatti. Poi guarda, io credo che la televisione viva fondamentalmente di idee, di un grande lavoro di squadra. Il cinema vive di ispirazione. Eccolo qua il nostro Stefano Accorsi, che è stato intervistato da Alessandra Schepisi alla presentazione di 1992. Quindi tornano nell'immaginario comune gli anni 90. C'è stata una persona che già da anni aveva predetto che si sarebbe parlato con nostalgia degli anni 90. Siamo sempre stati abituati a farlo con gli anni 80. Gli anni 90 sembravano caduti in un buco nero e invece, non lo so, chissà come mai adesso finalmente si recuperano anche questi anni con un po' di nostalgia. Finalmente oppure no? Lo chiediamo appunto alla prima persona che anni e anni fa aveva recuperato l'immaginario degli anni 90 per Radio 24. È un grande ritorno, io quindi sono molto molto molto contenta di averlo collegato al telefono con me, Tommaso Labranca. Buongiorno Tommaso. Buongiorno Marta. Che meraviglia Tommaso, tra l'altro stavo twittando che finalmente ti risentiamo su Radio 24. Tommaso, tu una trasmissione dedicata agli anni 90 l'avevi fatta ma tantissimo tempo fa. E non erano quasi neanche finiti gli anni 90. Sì, cioè, proprio sei stato il primo a capire che esisteva uno spirito di quegli anni. Era il 2003-2004 ed era su Rete 4. Siamo appunto anni 90 e ti posso anche dire perché l'avevamo fatta. Come mai? Perché i dirigenti avevano deciso di far pulizia nel magazzino. buttare via tutti i nastri che c'erano di trasmissioni inutili, tipo Fuego e così via. Per cui i pezzi più importanti dovevano essere inseriti in qualcosa e quindi è stato deciso di salvarli mettendoli nel quadro di un programma sugli anni 90. Ma il resto è stato distrutto allora? Mi stai dicendo una cosa terrificante? Penso, è terrificante, peggio ancora i dirigenti Rai che fecero sovraincidere i nastri che c'erano le edizioni di Sanremo. Certo, certo. Sai meglio di me quello che succede in quei magazzini, si butta via tutto. Non so se abbiano buttato via effettivamente i nastri, forse è stato anche un bene, perché sai, di vedersi, non so, appunto Fuego. Non lo so, poi alla fine con un po' di nostalgia erano belle anche quelle, dai. Ecco, il problema è questo, Marta. Non sono anni da nostalgia. Nonostante tutto continuano a non esserlo? No, perché l'ultimo periodo in cui tu hai potuto provare della nostalgia sono stati gli anni 70. Neanche gli anni 80, dei quali abbiamo revival infiniti? È infiniti revival, ma sai perché? Perché in realtà sono infiniti gli strati che hanno composto gli anni 80. Mentre gli anni 70 erano una cosa, o eri con il Santo California o eri con il terrorismo, quindi avevi solo un esempio, avevi solo un tipo di moda. Negli anni 80 c'erano i dark, c'erano i paninari, c'era la new wave, c'erano gli sconvolti del reggae, tanto per restare nel campo delle band giovanili, che poi se vai a vedere c'è ben altro. Gli anni 80 si dividono in due grandi sezioni, quelli chiari gestiti da Pertini e quelli scuri gestiti da Cossiga dopo, che poi sono appunto gli anni chiari di Duran Duran e poi gli anni oscuri, che so, dell'etichetta della Foredila, della Foredi inglese, di Dirt and Dance, tutta questa musica cupa. Per cui vedi che non esiste una tipologia anni 80 e non puoi avere nostalgia. Hai nostalgia di quello che eri tu negli anni 80, non del periodo. Senti, secondo tantomeno, te... Sì, dimmi. No, pensavo che magari, allora, poco prima di andare in onda parlavo con la nostra Valeria Bernardi in regia, dicevamo che effettivamente poi in questi giorni Sky si era inventata un canale dedicato alla produzione televisiva del 1992 e ci siamo messi a guardare con nostalgia Beverly Hills 92-110 o Melrose Place. C'è un recupero degli anni 90 per via di questa generazione di 35-45 anni che stanno andando più o meno al potere e che quindi vogliono cercare di trovare qualcosa di simbolico nel loro immaginario di adolescenti e di ragazzi? Guarda, il tentativo è stato fatto anche dal sito del Corriere, ci stanno provando tutti, però poi quando vai a vedere esattamente quello che fanno questi 35-40 anni, cioè prendiamo il nostro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, quando fa una citazione è sempre molto vecchia, cioè non cita mai qualcosa degli anni 90, mi ricordo citava, che so, di Righiera, cioè Righiera 82-83, cos'era per quel periodo all'incirca, per cui non hanno neanche le idee chiare, per un semplice motivo. Perché gli anni 90 sono stati il vero inizio della crisi, la crisi non è quella che vediamo adesso, gli anni 90 sono stati la crisi, da lì ricordo il 91 già che tutti parlavano di crisi, per cui siamo andati avanti usando le cose del decennio precedente, i bambini hanno giocato con i giocattoli dei fratelli maggiori, hanno rivisto le repliche dei Puffi e tantissimi sono convinti che i Puffi siano un personaggio degli anni 90, che in realtà poi sono nati molti anni prima, se lo saprei. Io me li ricordo sul Corriere dei Piccoli e non sono, ecco, una bambina degli anni 90. Ecco, per cui io su quell'orripilante fiera delle vanità che è Facebook, vedo queste pagine, sei degli anni 80-90, sì. Giocavi col dolce forno. Il dolce forno. Ma no, è vecchissimo. Ma sì, ma scusa, io veramente adesso non voglio arrabbiare, ma sono veramente degli imbecilli. Cioè, purtroppo questi social network danno il potere a chiunque. Senti, io, Tommaso, ma per quanto riguarda i social network, ecco, secondo te alimentano la nostalgia? Perché probabilmente se ci fosse stato Twitter ai tempi del tuo geniale Anima Mia, adesso purtroppo facendo i conti direi che era del 97 e quindi sono passati un po' di anni da quella pietra miliare della storia della televisione italiana, tu eri nel cast insieme a Fabio Fazio, insomma non ce lo siamo dimenticato. Anche, ero soprattutto un autore del programma. Poi. Beh sì, però sai, noi ti guardavamo e quindi noi sapevamo che andavi in onda, dai, da spettatori ci ricordiamo che tu andavi in onda con tutti gli oggettini degli anni 70, non ce lo quindi dimentichiamo. Ho lasciato una traccia più profonda dei tronisti, perché i tronisti non ce li ricorda nessuno. No, una traccia profondissima, ma se ci fosse stato Twitter all'epoca, chissà che delirio. Ma non c'era Twitter, però so che c'erano i gruppi d'ascolto, perché poi ci scrivevano le lettere proprio su carta dicendo era venerdì, mi sembra, se l'ho dimenticato tutto. Sì, era il venerdì, ogni venerdì ci incontriamo per guardare il programma e piangere guardando gli oggetti oppure sentendo certe canzoni, perché c'era la nostalgia. E sai da cosa è dettata la nostalgia anche? Dal fatto che negli anni 70 è stato l'ultimo periodo in cui, il primo e l'ultimo periodo in cui la televisione ci ha unificati. C'erano due canali e si vedevano solo quelli. Già alla fine degli anni 70 è successo che c'è stata l'atomizzazione della televisione, per cui a Molfetta non è la stessa nostalgia che puoi avere ad Arezzo, perché vedevi canali differenti. Verissimo, verissimo. Sì, perché il nonno Ugo che faceva impazzire in Romagna, lui a Milano non diceva niente. Viceversa, Aiazzone e Giugno lo conoscevano, per cui sono nate tante nostalgie. Ancora una volta gli anni 80 erano gli anni della stratificazione. Tommaso, ti chiedo un'ultima cosa, tu cosa conserveresti e cosa consiglieresti di recuperare degli anni 90? Nulla. Buttiamoli via. Per me sono stati un bruttissimo decennio, perché appunto viveva tra i residui degli anni 80 e l'attesa spasmodica del 2000. Non abbiamo avuto il tempo di creare nulla di bello. Erano stati anni così, passati velocemente, ricordando più il passato e attendendo il futuro. Aveva bisogno di vivere il presente, quella è la cosa da fare, altrimenti non resta niente. Per fortuna in questi anni, adesso nel 10, stiamo vivendo il presente e fra 20 anni ci sentiremo qui in radio e per parlare del revival degli anni 10. Ma sì, magari invece ci sarà una tecnologia tutta nuova e saremo degli ologrammi direttamente seduti in macchina con le persone che in questo momento stanno facendo dei girettini per andare a passare il sabato pomeriggio in lietezza e allegria, e ci sarà tutta una tecnologia diversa, ma ci sarà sempre la radio. Tommaso, io spero di averti presto in studio. Mi vieni a trovare al sabato del villaggio? Mi vieni a trovare in studio? Ma non solo al sabato, in tutti i giorni della settimana, Marta, perché per te sarei qualunque cosa. Che meraviglia. Grazie a Tommaso Labranca per essere stato con noi, per aver parlato un po' con noi di questa, così, di questo ritorno, di questo immaginario degli anni 90, ancora un po' anodino, un po' misterioso. Grazie Tommaso, a presto. Ciao. Noi ci risentiamo tra poco, appunto perché dicevo, in tanti sono in macchina che chissà dove stanno andando, magari a mangiare un bel gelato. Qui a Milano c'è un clima bellissimo. Un po' vi invidio che siete a passeggio, mi sembra di essere a passeggio con voi. Ci risentiamo tra pochissimo dopo le indicazioni sul traffico. Il sabato del villaggio. Che meraviglia, vi do le indicazioni per aggiudicarvi, per portarvi a casa il nostro regalo, che sono delle coppie di biglietti per le date del tour di Enrico Ruggeri. 7 date, ve le dico subito: 18 Macerata, Teatro Lauro Rossi, 27 Milano Teatro Nazionale, 28 Torino Leroy, stiamo parlando di aprile. Invece a maggio 6 Lucca Teatro del Giglio, 8 Brescia Teatro Santa Giulia, 16 Campione d'Italia Teatro del Casinò, 25 Roma Auditorium Parco della Musica. Quindi 7 date. In questa puntata del Sabato del Villaggio vi regaliamo 7 coppie di biglietti, quindi 7 di voi potranno andare con la persona del loro cuore a vedere il tour di Enrico Ruggeri. Come fare? Vabbè, basta mandarci un messaggio al 349-238-6666. Cosa deve contenere questo messaggio? Il vostro nome, il vostro numero, la tappa che preferite, ovviamente farà fede l'ora di arrivo del messaggio, che dovrà contenere anche il nome del tour di Enrico Ruggeri. Aspetto i vostri messaggi al 349-238-6666, 7 coppie di biglietti per le 7 date del tour di Enrico Ruggeri. Io non vedo l'ora di andarlo a sentire, il nostro collega di Radio 24. Io vi ripeterò ancora le indicazioni nel nostro Sabato del Villaggio, ma intanto vedo che stanno già arrivando i messaggi al 349-238-6666. Dobbiamo continuare a parlare di musica, perché questa è stata una settimana molto molto difficile per le ragazze. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You love. Beh, la canzone è lievissima, sorridente. Io vi immagino le ragazzine felici che ascoltano questa canzone degli One Direction. No, ma quali ragazzine felici? Sono stati giorni del dramma, perché uno degli One Direction, Zayn Malik, ha deciso di lasciare la band. Quindi è successo di tutto sui social network, queste ragazze, e io lo dico veramente con grande tenerezza, perché posso immaginare il dolore. Queste ragazze sono veramente impazzite. Io vorrei parlarne con una delle nostre amiche del Sabato del Villaggio, è sempre espertissima di temi di costume, anche di temi abbastanza sentimentali, perché è l'autrice del Colonnino Amoroso sulle colonne del Corriere della Sera, Costanza Rizzacasa d'Orsogna. Ciao Costanza, buongiorno. Ciao, ciao Marta, ciao. Beh, noi siamo un filino fuori età, di poco Costanza, di poco. Però io già guardo queste ragazze con grandissima tenerezza, è successo anche di tutto, io, su Twitter io. E su Facebook. Poi diciamo, in quanto a isteria collettiva dobbiamo dirlo noi che siamo passate dai Duran Duran, i One Direction non hanno inventato nulla. Ah no, certo, le boy band di ieri, di oggi, quello sono, eh. Esatto, ma poi non so se hai visto in questi giorni, ho fatto molta tenerezza, c'erano tutti questi account Twitter che sono nati, quello lì che si chiamava Zayn, tornati prego, Zayn non te ne andare, e poi tutti quelli che invece poi li hanno presi in giro, guardavo, mi ha fatto morire da ridere lo scrittore e comunicatore Matteo Grandi, un amico anche vostro, e lui ne ha ripresi un po' fotografando questi tweet, e per ognuno faceva un commento cattivissimo, tipo chissà se avremo sue notizie, dicevano le ragazze. No? Sempre con l'hashtag, sempre nei nostri cuori Zayn, e lui a pensare che c'è chi ha paura dell'ISIS, insomma molto molto molto cattivo. A me devo dire, noi che siamo passate dai Duran, queste ragazzine e anche i ragazzini fanno solo tenerezza. Nell'85 insomma, quando si sciolsero i Duran, un'isteria che non si può, che solo noi che ci siamo passate ci ricordiamo, e poi anche Clizia Gurado che scrisse Sposerò Simon Le Bon si ricorda. Ma è stato veramente un momento molto difficile per tutte. Tra l'altro io invece vorrei citarti un'altra canzone, perché invece questa canzone dei Take That, e io guardo Valeria per trasmetterle così subliminalmente questo ricordo, i Take That facevano questa Back for Good qualche annetto fa. Ce l'abbiamo, Valeria, Back for Good? I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Beh, io me la sentirei tutta, me la canterei tutta, ma poi ho paura di lasciare acceso il microfono, e con la voce che oggi non sarebbe proprio il caso. Costanza, 20 anni ha questa canzone. Ma e poi noi ci ricordiamo i New Kids on the Block degli anni 80, ma anche i Backstreet Boys, perché poi in realtà all'inizio le boy band, forse chiamate così, di cui chiaramente insomma i pre-boy band mitici storici erano i Jackson 5, le boy band non erano all'inizio mirate ai teenager come oggi, è stata soltanto una roba che è cominciata un po' negli anni 90, e ovviamente la fine degli anni 90 è stato il momento di picco delle boy band che hanno avuto un successo che ancora i One Direction non sono arrivate ad avere. Infatti i Backstreet Boys hanno venduto più dischi, ripetiamolo. Beh sì, tra l'altro tu hai citato Duran Duran, però anni 80 c'era la grande sfida Duran Spandau. Io questa settimana, ne avevamo già parlato la scorsa settimana, sono stata a un concerto di una boy band ed eravamo tutte ragazze fan di questa boy band. Peccato che la ragazza più giovane avrà avuto 35 anni, non ce n'era una sotto i 35, ma a essere ottimista, perché secondo me l'età media partiva dai 45. Io sto parlando degli Spandau Ballet, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ma io sono stata a sentirli a Milano. Sono dei ragazzi ancora veramente in forma, posso dire che sono ancora 5 bei fighi, l'ho detto. Li ho incontrati, devo ancora ringraziare la Warner e Saludo Italia, che mi hanno dato la possibilità di infiltrarmi nel backstage, di incontrare i 5 Spandau, lo sognavo da una vita. Veramente gentili, carini, simpatici, e mi hanno raccontato cosa significa per loro essere tornati insieme dopo tanti anni come una band. Perché lo dico alle ragazze che ci stanno ascoltando: le band scoppiano, si soffre, ma poi le band tornano anche insieme. Ecco gli Spandau Ballet. I mean, we've been to Italy many, many times over the years. We were here. Siamo stati tante volte in Italia negli anni. Ci siamo tornati anche di recente per il Festival di Sanremo. Ma una band non è mai del tutto sicura. Le cose saranno come un tempo? La gente ci amerà ancora? Ma sembra che ci sia ancora un enorme affetto del pubblico nei confronti degli Spandau Ballet. But there seems to be a great affection from the Italian people for Spandau Ballet. If we get to the end of the concert tonight and everyone's singing "Ale-oh," Ale. Se arriviamo alla fine del concerto con la gente che ci canta Ale, oh, allora sarò felice. Then I will be really happy. So. Your history, your human and musical history is a mirror to your public. I vostri fan si rivedono in voi negli anni che sono passati, nella vostra storia, rivedono le loro storie nelle vostre. Voi la sentite questa vicinanza? Sentite di essere uno specchio per i sentimenti del vostro pubblico? Feel them when you're on stage. That's why we do it. I mean, that is the whole point, you know. È quello che facciamo, è proprio il punto. La cosa meravigliosa dei concerti è ritrovare vecchi amici. Loro reagiscono a quello che facciamo noi e viceversa. Una gratificazione immediata, la nostra parte preferita. È quello che vuoi quando sei in una band. When you join a band, this is what you want to do. Yeah, and it's an amazing thing, you know, when you look around on stage and there's the five of us and we're playing. È una cosa bellissima trovarci noi cinque sul palco insieme e fare felici 10.000 persone davanti a noi. Ecco quello che ci interessa, far felici 10.000 persone stanotte. Yeah, that's what it's about, is making 10.000 people happy tonight. Non so se avete notato, gli ascoltatori attenti avranno notato che le voci sono quelle dei miei colleghi di Radio 24, che ieri ho convinto uno a uno a fare ognuno uno Spandau. Non li ho fatti scegliere, a uno toccava Tony, all'altro toccava Steve, all'altro chi capitava capitava. Allora, le band litigano, poi le band tornano insieme con gli Spandau Ballet per pura amicizia, ve lo assicuro, e in maniera anche abbastanza commovente, perché far parte di una band è anche un bel sogno, un sogno da vivere sempre, e sempre loro ce l'hanno raccontato nel backstage del concerto del Mediolanum Forum, gli Spandau Ballet. Viviamo sempre il nostro sogno, era quello che sognavamo da teenager, da bambini, e lo stiamo ancora vivendo, esibirsi davanti a 10.000 milanesi urlanti. 10.000 screaming milanese, what could be better? The great thing is that we feel that, grateful that we're in this position. Siamo grati per quello che abbiamo e che abbiamo avuto. Non a tutte le band capita di avere il successo che hanno avuto gli Spandau e che siamo riusciti a ritrovare. Abbiamo già dimostrato a noi stessi tutto quello che dovevamo dimostrare e adesso possiamo semplicemente divertirci e mostrare alla gente quello che facciamo. Siamo orgogliosi di quello che facciamo, delle nostre canzoni, di come suoniamo, del nostro essere musicisti. And we're proud of what we do. We're proud of the songs. We're proud of how we perform. We're proud of our musicianship. We're very grateful because. Sì, siamo molto grati perché siamo stati i peggiori nemici di noi stessi. Ci siamo staccati da tutti per 20 anni e quando siamo tornati la gente ha deciso di amarci come prima e non era detto. Questa sera, dopo questo concerto, cosa vorreste che si portassero a casa i vostri fan? Sorrisi. Ah, non era il merchandising? Ma no, quello che vogliamo è che la gente venga, canti, si diverta. Come dice John, che la gente torni a casa con il sorriso sulle labbra e dica: è uno dei concerti più belli che io abbia mai visto. Se lo fanno, siamo felici. Vuol dire che abbiamo fatto il nostro lavoro. If they do that, then we're happy and we've done our job. Costanza, come ti sono parsi questi Spandau? Io li ho trovati simpaticissimi, sono tanto carini. Io devo dire, sempre Duran fan sono stata e quindi... No, io ero democratica, un po' Duran, un po' Spandau. Quando conoscerai Duran Duran ti dirò come sono anche i Duran. No, mi... un bacio a Simon per me, per favore. ti porto, mi intrufolo ancora nel backstage, questa volta ti porto. No, mi piaceva dare questo messaggio alle ragazze che davvero mi fanno molta tenerezza, che soffrono in questo periodo, in questi giorni, addirittura quelle brutte immagini di ragazze che si fanno i tagli, ecco, quello non va bene, perché le band litigano, però poi fanno anche pace e fanno anche gli scemoni come hanno fatto gli Spandau e mi hanno fatto molto divertire. Assolutamente, e poi è stato anche carino come lui ha ricordato, proprio che si volevano bene all'inizio, insomma, poi ha detto che sono stati stupidi e tutto quanto, però chiaramente per loro ricordano un tempo in cui non solo era un tempo di massimo successo per loro, ma era proprio il tempo in cui stavano crescendo. Sono quelle amicizie comunque che fai in un momento critico della vita, che ti porti dietro, poi come tutte le amicizie, insomma, si sfaldano e poi si torna insieme. Lo auguriamo anche agli One Direction e alle giovani fan degli One Direction. Grazie per essere stata con noi, a Costanza Rizzacasa. Aspetta che te lo ridico bene, perché ogni tanto mi incarto. Aspetta, grazie per essere stata con noi, a Costanza Rizzacasa d'Orsogna. Grazie Costanza. Prego, prego, ciao. E noi ci ritroviamo tra poco ancora col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Sempre i liberi consigli per il fine settimana al Sabato del Villaggio, ma sempre la possibilità anche di farvi regalare i biglietti per il tour di Enrico Ruggeri. 7 tappe: Macerata, Milano, Torino, Lucca, Brescia, Campione d'Italia, Roma. Cosa dovete fare? Mandarci un sms al 349-238-6666 con il vostro nome, il vostro numero, la tappa che preferite e, beh, dovete indovinare qual è il nome del tour di Enrico Ruggeri. Cosa succederà? Beh, che le prime 7 persone che ci hanno mandato l'SMS città per città, insomma con la città preferita, si porteranno a casa una coppia di biglietti. Quindi 349-238-6666 è il numero per i vostri SMS. Ora la seconda parte della prima ora del Sabato pomeriggio di Radio 24, è il momento di parlare di tecnologie. Well, I woke up last night, couldn't tell if I was dreaming. I thought I saw the face of an angel and I heard her speaking to me. She said, my boy, don't fill up your head with trivial things, 'cause life's too beautiful for you to leave. Just like periscopes up in the sky. Well, I have never seen a girl as beautiful as you in my whole life, and things don't always go the way you plan them. Caro Enrico Pagliarini, questa volta ho scelto per introdurti una canzone dei The Beautiful Girls che si parla di sottomarini. Sì, si intitola Periscopes, periscopi. Periscopi. Buongiorno. Ma, buongiorno Enrico, perché pare che, insomma, sono ore che non si parli d'altro. Allora, c'è la lotta tra i periscopi e i suricati. Ah, bello, sembra la batracomiomachia. Sì, esatto. Allora, dovete sapere che nelle ultime settimane è esploso un fenomeno quasi incredibile, perché parliamo di cose che non sono nuovissime, però come sempre accade, come dice un amico che si occupa di software, tecnologia, dice: i panini li fanno tutti. Poi c'è a un certo punto uno che il panino lo fa meglio degli altri e fa successo. Allora, stiamo magari parlando non di... lo fa nemmeno meglio, però trova il modo per avere successo. Esatto, esattamente. Stiamo parlando di applicazioni, sono due applicazioni. Una si chiama Periscope, quindi periscopio, e l'altra si chiama Meerkat, che significa suricato, tant'è che il simbolo che c'è su questa applicazione è proprio il suricato, questo animaletto simpatico che salta fuori dalla tana e guarda di qua e di là, che fa più o meno quello che fa il periscopio, no? Solo che certo, è un animaletto, no? Certo. Che cosa fanno queste applicazioni? Sono applicazioni per il momento solo per iPhone, perché sono appena nate, ma stanno arrivando anche per Android. Sostanzialmente ci permettono di fare una diretta televisiva, non radiofonica, anche, c'è anche l'audio naturalmente, video, una diretta video, e possiamo far vedere questa diretta video a tutti i nostri follower, tutti i nostri contatti su Twitter. Io volevo convincere Pagliarini a farne una in diretta, ma mi è un po' timido. Quindi... In realtà il mio smartphone è pronto per fare un'altra cosa. Ah, ok. Quindi, okay, lo teniamo, okay. Quindi non periscopiamo per questa ma volta. So che più tardi avete in programma una. Sì, voglio convincere Daniele Bellasio. Vediamo, esatto. Se una periscopazia, sì. Hanno avuto un successo incredibile. Tanto che allora, è partita Meerkat con questa idea. Cioè l'idea è collegare i follower su Twitter alla diretta video, quindi è molto semplice: io comincio a fare una diretta video, quindi inquadro qualche cosa e tutti i follower che ho su Twitter possono collegarsi e vedere quello che sto trasmettendo, tutto via internet naturalmente, quindi dobbiamo avere la connettività, una buona connettività. Ha avuto tanto successo negli Stati Uniti che Twitter si è comprata, ha tirato fuori dal portafoglio 100 milioni e si è comprata una piccola società che fa la stessa cosa, che si chiama Periscope. Quindi vedremo poi se girata addirittura voce che Twitter vorrebbe cercare di bloccare o comunque boicottare un po' Merca. Succede, come quando vuole che noi postiamo le foto su Twitter e non su Instagram, vorrebbe... Esattamente. Sì. Allora, devo dire che, come dicevo prima, non è una novità assoluta, è un po'... Il modo con cui questa cosa viene fatta e soprattutto della buona integrazione con Twitter, visto che Twitter ha tanto successo, c'è molta euforia su Twitter. Chiaramente, se io creo un servizio che si connette e si collega a Twitter, è ovvio che questo servizio ha successo. Devo dire che almeno al momento non abbiamo dei dati sui numeri, ce ne sono vari, ma insomma non abbiamo nulla di preciso. C'è però una grande euforia, tant'è che tutti ne parlano, oggi ne stiamo parlando. Pare che al Sole 24 Ore tutti stiano facendo prove varie di ci comunichiamo da un piano all'altro, trasmissioni televisive su, poi vedremo se questa sarà solo una moda passeggera, se esisterà un mercato. Ci sono altre applicazioni che permettono, ci sono dei servizi che sono diventati anche applicazioni che permettono di fare sostanzialmente la stessa cosa. Live Stream o Ustream sono due servizi molto noti e molto famosi per fare streaming video online, e esistono anche le applicazioni, quindi è possibile poi anche sullo smartphone, tramite lo smartphone, fare una diretta televisiva. Posso chiederti subito dei problemi che ci possono essere? Privacy? Allora, il primo è quello di privacy. Partiamo dalle cose positive, quindi diciamo una cosa del genere può servire, che ne so, uno fa una lezione a 30 persone, ma è una lezione di gran valore, allora potrebbe decidere di... Basta uno smartphone collegato a internet può decidere di mettere questa lezione, fare una trasmissione dal vivo, in diretta di questa lezione. Oppure possiamo pensare a tanti eventi, e anche oggi, se pensiamo alla capacità, alla qualità anche video che hanno gli smartphone moderni con delle videocamere che hanno una definizione ottima, anzi in molti casi una alta definizione, pensiamo che si possano fare delle dirette che quasi quasi fanno concorrenza alla TV tradizionale. Certo, vedremo, certo. Secondo me succederà qualcosa. Beh, io ho visto in questi anni, giorni appunto Fiorello che ha fatto dei micro spettacoli divertentissimi. Esatto. Allora, ci sono i problemi più grossi, sono due sostanzialmente: il primo è di privacy legata alle persone, il secondo è quello dei diritti d'autore, perché se io vado ad una partita di calcio e mi metto a inquadrare il campo e trasmettere la partita di calcio, certo. Penso che poi qualche avvocato si muova. Vado ad un concerto, se io passeggio per strada, faccio una diretta. Io questa mattina ho fatto un po' di prove, passeggiavo per strada e stavo pensando, ma se io inquadro una persona e magari uno dei miei follower che sta guardando quella trasmissione che io sto facendo vede quella persona e dice, ma quella persona mi aveva detto che era a Bari, invece è con l'amante. Esatto, insomma, è chiaro che però questo rientra nel più grande fenomeno di internet. I problemi di privacy del genere li abbiamo già visti, e quindi c'è già una giurisprudenza che ci potrebbe suggerire qualche soluzione, però sicuramente queste cose sono devastanti, quindi poi fermarle non sarà semplice, non sarà facile. Comunque invitiamo i nostri ascoltatori a provare. Cito anche Tweetcam, sì, che ho interrotto prima, che è simpatica e divertente perché si può connettere all'account Twitter. Cito anche, a me piace, gli ascoltatori mi criticheranno, ma insomma secondo me è una buona alternativa per fare trasmissioni, per evitare problemi di privacy all'interno di gruppi. Ne cito due. Allora, Hangout di Google è sicuramente una buona soluzione, ma anche Induna di Tiscali è un'applicazione che ha avuto successo in alcuni paesi, non tanto in Italia, anche se è italiana. Si può fare una diretta televisiva ai contatti, quindi io faccio un gruppo e dico, una riunione. Faccio una riunione e la posso fare tra i miei amici. Chiaramente la forza di applicazioni invece come Mercat o Periscope è che tu lanci una diretta e se uno non è un tuo follower, però ci può diventare in un attimo, quindi può agganciarsi e seguirti in un attimo. E devo dire che questo è, da un certo punto di vista, devastante. Vedremo delle belle. Allora Enrico, ci risentiamo tra poco, una brevissima pausa, perché poi sono molto curiosa di vedere cosa ci hai portato. Il sabato del villaggio. Allora Enrico, un'altra delle tue straordinarie prove. Oggi ho portato uno sfigmomanometro, detto più semplicemente uno strumento per provare la pressione arteriosa. È una esperienza, non dico comune a tutti gli italiani, anzi forse dovremmo incentivare gli italiani a provarsi più spesso la pressione, ma è un esempio di un trend che sta espandendosi nel mondo dell'elettronica di consumo. Allora, io ho uno smartphone. Uno sfigmo manometro normale di quelli a braccialetto. Allora, io ho appunto uno smartphone sulla mia destra, al polso sinistro ho uno strumento per misurare la pressione e dopo aver fatto l'accoppiamento via Bluetooth, io faccio start e attenzione, schiaccio start, il sistema si connette, mi dice, quando lui capisce che è nella posizione giusta, continua e attenzione. Qui c'è la pompetta che sta gonfiando, insomma, conoscete la striscia, quella striscia che si mette attorno al braccio, attorno al polso per provare la pressione. Quindi lui sta gonfiando, ci mette un minutino. E intanto lo smartphone mi dice che si sta gonfiando la striscia, tutto senza fili, tutto collegato con il Bluetooth. Quindi io piloto questo strumento con lo smartphone. Ma la cosa interessante è che poi tutti questi, ecco, adesso mi dice, eccola qua, adesso non dirò 120-80, adesso non dirò la pressione precisa per motivi di privacy. No, però mi sembra giusta. Sì, sì, infatti è luce verde. Sì, è giusta. 110-87, vabbè, insomma. Comunque, io tutta mattina mi sono provato la pressione, andava tutto bene, e la cosa interessante è che questi dati vengono raccolti dal mio smartphone e quindi dopo una settimana, dopo un mese, io mi faccio delle belle statistiche, cosa che altrimenti dovrei fare segnandomi su un foglio di carta tutti i dati giorno per giorno, ora dopo ora, magari un po' esagerato, però è una cosa interessante perché apre uno scenario molto molto vasto dove possono succedere tante cose. Ne parliamo la prossima settimana? Prossima settimana cercherò di portare non solo lo sfigmo manometro, ma anche altre cose, perché ci sono bilance, cardiofrequenzimetri, glucometro. Forse questa è una delle cose più interessanti. Allora, la prossima settimana ancora con le prove di Enrico Pagliarini. Lo studio di aggeggi vari. Fantastico, al prossimo Sabato del Villaggio. Ciao. Dai creatori dei Cruz e Dragon Trainer. Tu pensava che potere scappare? Vogliono distruggere il pianeta. Noi non ci arrendiamo. Vieni. Lui cambierà il mondo di lei. Autodistruzione attivata. Noi. Lei cambierà il mondo di lui. Io non essere integrato tra i boob. Nessuno è perfetto. I tuoi errori sono ciò che ti rende umano. Home, a casa. Questa volta partiamo subito con l'uscita per la famiglia, parlando delle uscite del weekend, perché a me piace così tanto, mi sono innamorata anche solo guardando il trailer. Chissà com'è questo Home, questo film, se dobbiamo portare oppure no a vederlo i ragazzi questo fine settimana. Beh, lo chiediamo subito al nostro esperto Franco D'Assisti. Buonasera Franco. Ciao Marta, ben ritrovata. Ma sì, assolutamente, andarlo a vedere tutti insieme e portarci i bambini anche piccoli stavolta, perché Home è proprio il classico prodotto che estende le sue radici dai 3 ai 90 anni. Ecco, infatti temevo che mi dessi un range troppo basso. No. Siamo dentro tutti, perché chiaramente si può godere in tanti modi, perché come al solito è una favola ambientalista sull'integrazione, sulla tolleranza, sul valore della diversità, insomma molto molto edificante, come sempre accade, come spesso accade nel cinema recente americano di animazione, anche con la capacità di far sorridere, di inventare personaggi buffi. E qui c'è tanta invenzione, forse l'inventiva veramente il pregio maggiore di Home, perché si è lavorato molto sui caratteri, sui personaggi, su questa razza dei boov che invadono la Terra in una maniera pacifica, diversa da altri film di fantascienza anche non animata. Cioè, questa volta sono invasori che non vogliono fare del male ai terrestri, anzi gli costruiscono delle bellissime villette a schiera tondeggianti in zone totalmente disabitate, però li trasferiscono lì e loro invece si prendono le case del centro delle città. Una ragazzina di 12 anni riuscirà a sfuggire a questa dolce deportazione, a rimanere lì e farà amicizia con il boov più scalcagnato, più sfigato, più nerd che ci potesse essere fra gli invasori. Fra queste due unità nasce una grande amicizia. Italia, e devo dire che appunto i buoni sentimenti ci sono anche le risate, c'è tanta inventiva. Il cast originale, tra l'altro il cast vocale ovviamente, vede personaggi come Jennifer Lopez, Rihanna, perché la bambina è di origini delle Barbados, quindi hanno preso Rihanna a doppiarla, Steve Martin, quindi insomma c'è davvero di che divertirsi con questo cartone animato che, lo ricordo, è DreamWorks ed è dalla stessa pattuglia operativa e creativa di Dragon Trainer, quindi insomma siamo in quelle atmosfere lì. Quindi andare in famiglia a vedere Home, non andarci assolutamente a vedere French Connection. No, lì diciamo che i bambini di 3 anni li lascerei a casa, perché si spara parecchio, però è un film interessante French Connection, perché si torna un po' al clima del polar francese, insomma del noir, ma sì, più del polar, proprio del poliziesco alla francese anni 70. Intanto Jean Dujardin, The Artist, in persona come protagonista, ed è un film che si sviluppa sulle strade della Marsiglia, della malavita, con traffici di droga, con gente che salta, diciamo così, la staccionata da una parte all'altra, con la polizia che classicamente prima brancola nel buio, poi qualcosa ci capisce. È una struttura narrativa piuttosto classica, non aspettiamoci cose particolari. Siamo tra l'altro all'inizio degli anni 80, perché tutto è basato su storie reali accadute, però è un film che è chiamato quel cinema che fece grande Alain Delon, tanto per intenderci, insomma può guardare con una certa tranquillità, però si spara tantissimo, quindi bambini a casa. Ebbene sì, allora bambini a casa. Vorrei parlare di uscite italiane. Noi tra poco avremo il bellissimo, sono un po' di parte, Adriano Giannini, Ho ucciso Napoleone, è una delle uscite italiane del fine settimana. Sì, di un fine settimana tra l'altro molto ricco, perché c'è una bella quasi decina di film che arrivano nelle nostre sale. Qui dirige Giorgia Farina, una regista da seguire, piuttosto interessante, anche perché nel panorama registico italiano sono molti gli esordi al maschile, sono pochissimi quelli al femminile, e quindi va seguita con una certa attenzione. Nel cast c'è Michela Ramazzotti, che io adoro, in tutto e per tutto. C'è Libero De Rienzo, che è un attore che forse avevamo visto poco magari negli ultimi tempi, ma che aveva avuto diversi exploit in passato. Poi si va a ripescare attori di chiara fama, insomma, come Elena Sofia Ricci, Yaya Forte, per una storia appunto che racconta il giro d'orologio, le 24 ore di una ragazza, di una donna, appunto la protagonista Anita, che diciamo vede perdere le sue certezze, non voglio spoilerare troppo, vede perdere le sue certezze di donna in carriera mano a mano durante lo scorrere del tempo. È l'unità temporale forse la cosa più interessante anche di questo film, cioè il fatto di lottare contro il tempo, che è sempre un escamotage, pensa a serie televisive come 24, come 24. No? Per esempio, che ti danno però quel pathos che è dato proprio dalla corsa contro il tempo. E un bel film italiano, e brava Giorgia Farina. Allora Franco, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18, e con noi ancora insieme al prossimo Sabato del Villaggio. Ciao a tutti. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, col nostro villaggio globale fatto di grandi consigli per il weekend, liberi consigli per il fine settimana. Vi ricordo il numero per i nostri sms: 349-238-6666. Anche il mio account di Twitter può servire, @MartaCagnola, l'hashtag che è ISDV, ma il numero per gli sms, vi ricordo, vi serve ancora per mandarci i vostri messaggi con il nome, il numero e il nome del tour di Enrico Ruggeri, perché i primi 7, non so ancora se ci sono perché non li ho ancora visti, non me li hanno ancora dati gli sms, i primi 7 si porteranno a casa 7 coppie di biglietti per ognuna delle 7 date del tour di Enrico Ruggeri. Ma cosa succederà nella seconda ora del Sabato del Villaggio, prima poi di dare la linea a Radio Tube? Stiamo diventando adulti, se anche Sarah Jessica Parker ha compiuto 50 anni, ma cosa resta di Sex and the City? Le novità in fatto di bellezza anche in TV, ma anche economia domestica 2.0 nel nostro spazio dedicato alle nuove tendenze, i libri, impossibile non sapere tutto sul nuovo di Emmanuel Carrère, ne parliamo con Alessandra Tedesco, ma prima torniamo al cinema. Mi spieghi quel coso come diavolo c'è finito lì dentro? Beh, uno non può distrarsi un momento che rimane fregato per tutta la vita. Sono al quarto mese. arrabbiatevi. Se le tolga subito. Il licenziamento è effetto immediato, capito? Licenziamento. Non ci libererai di me tanto facilmente. Micaela Ramazzotti e Anita, una manager votata alla carriera che si ritrova incinta di un collega sposato che per giunta è il suo capo e deve cambiare prospettive e strategie, tutto in poche ore. È il nuovo film di Giorgia Farina, Ho ucciso Napoleone, con Elena Sofia Ricci, Iaia Forte, Libero De Rienzo e il bellissimo e spietato Adriano Giannini. Allora, voi tutti sapete, il nostro prodotto sembra essere molto, molto, molto buono. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, dimagrimento senza effetti collaterali. Il nostro Slim Slam è una bomba. Fresca, non perdiamo altro tempo, veniamo subito al sodo. Ci dica chi ha deciso di nominare per il commerciale, perché qua c'è gente che mi sta sbavando sul tavolo. La dottoressa Anita Petroni. Ci voleva tanto, ce l'abbiamo fatta. I colleghi che si occuperanno insieme alla dottoressa di quest'ultima fase sono Riccardo Squassi, Giovanna Spazzola e Patrick Asseroni. È contenta? Magari non ravvisate i miei segni di eccitazione, ma essere fredda e anaffettiva è un traguardo che ho conquistato faticosamente. Una commedia diversa è la frase che ricorre parlando di questo film. Ecco cosa ne pensa proprio il bellissimo, lo devo dire, il bellissimo Adriano Giannini. Cerchiamo tutti qualcosa di nuovo. Noi attori veramente aspettiamo sempre la sceneggiatura un po' diversa, insomma. E negli ultimi tempi mi sembra di vedere un po' gli stili delle commedie in particolare sono sempre un po' gli stessi, quindi questa commedia qui ha uno stile completamente diverso e si intuiva già dalla scrittura. Poi, avendo visto il film della Farina, quello prima che si chiama Amica da morire, si intuiva già, anche quello aveva un forte stile e un linguaggio cinematografico particolare. Colorato, eccessivo, coraggioso, divertente per un attore? Divertente, sì, divertente, ma anche impegnativo, perché quando si lavora così, con dei caratteri così forti, bisogna anche rispettare e dare la verità ai personaggi, perché sennò si rischia di essere poco comunicativi, poco empatici col pubblico. Quindi alternare, però usare dei registri così diversi non è semplice, è la sfida di questi film. Da donna ti dico che sono sempre molto contenta quando ci sono delle ragazze e giovani che si affermano. Beh, certo. Giovani in Italia, perché a 30 anni sono in Italia, diciamo, giovani. Ma meno male che siamo dei ragazzini noi in Italia, esatto. Adriano. No, perché insomma qua il concetto del giovane in Italia è un po' strano, però andiamo avanti. No, però lei, insomma, mi fa piacere che sia una ragazza. Non ce ne sono tantissime di donne attrici, registe in Italia. No. No, ce ne sono poche con la sua giovane età, sono poche. E speriamo che ne vengano altre, donne, uomini, giovani, registi. Bisogna coltivare. Beh, un Giannini regista, tu che hai lavorato tanto dietro le quinte, regista? Io ho fatto un cortometraggio come regista e spero, farò un film, però non credo che sarà una commedia. Mi guardi in un modo che so che non ti posso chiedere altro, però... No, non lo so neanche qual è il film, okay. Non è che ciò, sai, no, però, c'è un copione, però tu dici proprio. Sicuramente non sei attratto. Non credo. Ti devo per forza chiedere qualcosa, io te lo chiedo ogni volta, però le tue cose americane e la tua avventura con le serie TV, perché l'ultima volta che ci eravamo sentiti per telefono eravamo pronti a vedere il pilot di The Cosmopolitans, che poi Amazon ha diffuso, e mi dicono che è stata preordinata la prima serie. Arriva The Cosmopolitans? Beh, non lo so, io sto aspettando, in questi giorni proprio, che credo entro il 31 marzo, quindi se sai qualcosa tu no, guarda, ho guardato proprio oggi sulla pagina di Facebook ufficiale, che c'è scritto sì, ma non prima del 2016. Ho guardato oggi. Ah, questo mi dai una notizia, veramente, io non so niente, controlliamo. Sì, non prima del 2016, beh, interessante, magari sarà importante che si faccia, però veramente non so niente, mi dici tu adesso. So che entro il 31, che siamo oggi, cioè, mancano pochi giorni, sì. Mi devono dare una risposta, io spero anche... No, anche perché così poi su Amazon sarete tu e Woody Allen alla fine a fare le serie. Sì, diciamo così, esatto, le commedie siamo io e lui, beh, insomma, va bene. Grande, grandissimo Adriano Giannini, noi ci ritroviamo tra poco perché dobbiamo parlare di libri al Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Ma che bello che stanno sempre arrivando i vostri messaggi al 349-238-6666, anche messaggi che mi raccontano dove state andando, perché io l'ho detto, secondo me state gironzolando in macchina verso qualche meta carina per passare il sabato. Luca, da Lucca, qualcuno mi scrive: Marco, dalla Toscana baciata dal sole, ciao Marta, io scuro dall'ufficio. Beh, insomma, spero che tu debba fare qualcosa di bello sabato pomeriggio. Kiss Luci Lu sul Carso Triestino, ora solo in Slovenia, sole e caldino, vi sto ascoltando mentre sto facendo una passeggiata, bellissimo. Renzo da Udine: sono un assiduo ascoltatore, grazie Renzo. Sono un pittore artista, meno pittore più artista, mi piace meno pittore più artista. Renzo da Udine: ora però è il momento di trasferirci, andiamo all'estero, entrerei in atmosfera con una musica per parlare di libri. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris. Andiamo in Francia, lo sentiamo subito dalla musica, per parlare dello scrittore, io non so se è lo scrittore di maggior successo del periodo, ma sicuramente tutti stanno parlando di lui. Io sono molto curiosa di sapere tutto del suo ultimo libro, perché non l'ho ancora letto, ma prima o poi voglio farlo. Però già chiedo tutto alla nostra esperta Alessandra Tedesco. Buonasera Alessandra. Ciao a tutti, ciao Marta. È collegata dal divano di casa perché, allora, io sono senza voce, sono raffreddata. Lei non riesce a uscire dall'influenza, siamo messe bene, bello, sì, molto bene. Praticamente di due non ne facciamo una. Non ne facciamo una intera, no, no. Chiamiamo in soccorso Emmanuel Carrère. Oh, senti, dimmi subito se vale la pena leggere il suo libro oppure no. Allora, diciamo che di Emmanuel Carrère, di questo libro che si intitola Il Regno, pubblicato in Italia da Adelphi con la traduzione di Francesco Bergamasco, diciamo tutte le cose precise, si è iniziato a parlare già forse a dicembre, i primi di gennaio, perché era insomma un libro attesissimo, il nuovo libro di Carrère, è lo scrittore più amato in Francia, è un intellettuale molto apprezzato anche nel resto d'Europa e da noi in Italia. Poi tra l'altro negli ultimi periodi è stato anche in Italia, è stato anche da Fazio, Che Tempo Che Fa, insomma se ne sta parlando tantissimo in Italia. Mi viene quasi da dire: dove vai se un'opinione sul Regno tu non ce l'hai? Perché insomma devi avere un'opinione su questo libro di Emmanuel Carrère. Prestami la tua opinione perché io non l'ho ancora letto. Ecco, allora farai il copyright. Allora, io amo molto Carrère, mi sono piaciuti molto alcuni suoi romanzi, come per esempio L'avversario, che vi consiglio veramente vivamente di leggere. Questo libro mi sono piaciute moltissimo, ma veramente tanto, le prime 100 pagine, diciamo così, perché è la parte in cui lui racconta il momento in cui è andato in crisi, non riusciva più a scrivere romanzi, insomma non riusciva a fare più il suo lavoro, e si è avvicinato lentamente alla fede per poi abbracciare la religione cristiana in maniera anche piuttosto forte. Era diventato un cristiano cattolico osservante, andava a messa tutti i giorni, insomma tutta una serie di cose, ed è bello vedere come insomma il suo passaggio psicologico. Lui ha scritto questo libro da, attualmente lui è agnostico, quindi insomma non è credente, ha ritrovato i 18 quaderni sui quali aveva preso appunti in questi 3 anni in cui era stato profondamente credente e in cui aveva letto i Vangeli, e ci ha riproposto la sua esperienza in questo libro Il Regno, quindi prime 100 pagine strepitose. L'altra parte, diciamo l'altra metà del libro, un po' più della metà del libro, è più una parte di saggio, nel senso che Carrère ricostruisce come si è affermata la religione cristiana nel mondo, e quindi ripercorre la vita di quello che poi diventerà San Paolo e di Luca soprattutto. Ed è molto interessante perché chi è interessato alla storia della religione e del cristianesimo, Carrère ce la racconta in modo molto, molto facile anche da comprendere e da seguire, molto bello dal punto di vista narrativo. Io non ero forse molto interessata a questo argomento, e quindi diciamo nella seconda parte mi sono un pochino annoiata, però io devo dire che è strepitosa. No, perché sai cosa c'è? Io mi ero divertita tantissimo leggendo Limonov, però mi rendo conto che era una cosa completamente diversa, c'era un libro avvincente, era una biografia ma sembrava quasi un libro di avventura. avventure. Qui stiamo proprio su un altro pianeta, Alessandra. Allora, in realtà c'è sempre il tocco di Emmanuel Carrer. Limonov, tu hai citato il suo libro più famoso, che raccontava appunto la storia di questo dissidente russo, viene comunque filtrata attraverso le osservazioni e le riflessioni personali di Carrer. Tant'è vero che Carrer viene considerato il cosiddetto padre dell'autofiction, una parola che a lui non piace, nel senso che prende spunto da fatti veri, da cose vere, per raccontare come lui si è rapportato a questi fatti o a queste cose. Quindi nel regno come lui si è rapportato alla religione cattolica e come lui è andato a indagare, infatti lui dice l'ho fatto con spirito dell'investigatore, la nascita e l'affermazione della religione cristiana nel mondo. Tu l'hai incontrato Emmanuel Carrer? Beh sì, insomma, un po' l'abbiamo incontrato tutti negli ultimi però rilassato molte interviste. Però è sempre un piacere, no, è sempre un piacere, dai. No, non poteva sfuggire, quindi vi faccio sentire un pezzettino di quello che ci siamo raccontati. Abbiamo parlato meno di fede, ma molto di psicanalisi. Il y a une tendance contemporaine a... Ultimamente c'è questa tendenza a voler attaccare la psicanalisi, pensando che sia una sorta di truffa. Ci sono molti giudizi polemici sulla psicanalisi. Però io, per la mia esperienza personale, devo dire che sono grato alla psicanalisi. Per me è stata molto salutare. Certo, sono d'accordo sul fatto che Freud non sia scientifico e che la psicanalisi non funzioni sempre. Bisogna essere degli idioti per poter pensare che la psicanalisi sia una specie di rimedio allo stesso tempo magico e scientifico. E questo era Emmanuel Carrer. Alessandra, lo dico io, questa sera il cacciatore di libri, l'intervista integrale, ce l'hai promessa, ce l'abbiamo. Ve la cuccate tutta. Alessandra, mi piacerebbe parlare di un altro fenomeno, perché io adesso lo dico agli ascoltatori, la scrivania di Alessandra Tedesco è inqualificabile. Io protesto adesso formalmente per il tuo disordine. No, allora è obiettivamente un delirio, è disordinatissima. È oggettivamente un delirio, ma un delirio creativo. Guarda che le scrivanie delle persone creative sono sempre disordinate. La tua è perfettamente, cioè, in ordine, mi fa venire in mente, come dire, la personalità quasi di un serial killer, perché diciamo che Marta Cagnola ha una mania anche di catalogare, per esempio, le interviste, i file, che fa paura. Poi sì, è utilissima quando serve qualcosa da trovare. Io sono sono estremamente ordinata. Sono famosa le mie penne ordinate per colore, sistemate rigorosamente sulla scrivania. Alessandra, perché parli? Serial killer. Anzi, guarda, facciamo una cosa. Io adesso twitto la foto della mia scrivania, fallo anche tu. Se c'è qualche ascoltatore che vuole twittare le foto del suo ordine o del suo disordine, noi saremmo contentissimi. Hashtag ISDV, potete menzionare me, Marta Cagnola, potete menzionare su Twitter Ale Teddina e le vediamo. Perché parliamo di ordine e disordine? Perché c'è un libro di cui si sta parlando tantissimo adesso in Italia. Si intitola Il magico potere del riordino. Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita. L'ha scritto una giapponese, naturalmente, che si chiama Marie Kondo, pubblicato da Vallardi. Se ne sta parlando tantissimo da un po' di tempo in Italia, è stato pubblicato ad ottobre, a oggi ha venduto circa 50.000 copie ed è spesso in classifica non solo della cosiddetta varia, ma anche proprio nei primi 10 libri più venduti in Italia. In Giappone ha venduto 2 milioni di copie, mica pizze fichi. In Italia se ne sta parlando tanto perché, diciamo, una nostra collega, compagna di un'altra radio, Latina, su Radio DJ, l'ha presa un po' molto a cuore, quindi insomma ne ha parlato molto su questo sistema dell'ordine e in Italia ha avuto un vero e proprio boom. Io l'ho letto, Marta, mi sono impegnata. Per ora non hai imparato tantissimo. Allora, vi faccio degli esempi. Allora, secondo me aspetti positivi di questo libro, anche per i disordinati. Lei sostiene che bisogna ordinare per categorie e non per stanze. E io ho deciso che applicherò questo metodo facendo le pulizie di Pasqua nel weekend di Pasqua Pasquetta, quindi poi ti dirò se ha avuto un buon esito o no. Poi dice, per esempio, non bisogna partire dalle cose a cui si è affezionati, per esempio le foto, ma io non butterei nulla, e infatti dice lasciatele per ultime perché non riuscirete a distaccarvi dalle cose a cui siete affezionati. Poi dice pensare allo stile di vita a cui si vuole arrivare. per capire insomma che cosa volete ottenere. E poi, per quanto riguarda i vestiti, cosa tenere e cosa non tenere, dice: pensate che siano in una vetrina, lo comprereste o no? Io sempre. Adesso su questo rifletto, anche perché io sono sono ordinata ma spendacciona, quindi sono ordinata insomma per un... Tu, quindi questo libro a chi lo consigli? Guarda, io lo consiglio, ecco, dico solo i due aspetti invece negativi secondo me dopo averlo letto, che secondo me questa è una pazza maniaca del controllo e non dico altro, e non apprezzo il vintage, perché se dice di buttare i vestiti vecchi, io mi ritrovo vestiti di 10 anni fa che adesso vanno molto di moda, ma questo è un problema di accumulatori seriali. Allora, in realtà mi è piaciuto molto questo libro nella parte in cui effettivamente dà un ordine mentale alle cose. Io lo consiglio a tutti i disordinati, a chi non riesce veramente a mettere ordine, perché lei sostiene che mettere ordine nella propria casa significa mettere ordine nella propria vita ed essere più felici. Facciamo una scommessa, Marta? Accetto la scommessa, accetto la... Senti, a proposito di essere più felici, io direi che è il momento per i nostri libri dedicati alla felicità orizzontale. Questa è bella. Sì, insomma, lo ricordiamo, noi abbiamo inventato questa rubrica oltre le sfumature, perché sì, ormai lo ripeto sempre, a me le sfumature di grigio non mi piacciono, invece a Marta Cagnola un pochino sì, mi sembra. Io mi sono divertita, mi sono divertita, viva Dio, dai, alla fine era un romanzo romantico come altro, come altri. Io mi sono annoiata a morte, ma comunque, per andare oltre le sfumature, stiamo consigliando, finché le sfumature saranno in classifica, noi consiglieremo sempre altri romanzi con uno sfondo erotico che secondo me valgono più delle sfumature. Questa settimana vi consiglio La prova del miele, l'ha scritto Salva al-Neimi, pubblicato qualche anno fa da Feltrinelli. Vi leggo giusto la quarta di copertina: per me l'arabo è la lingua del sesso. Insomma, l'intimità di una donna araba, la narrazione della sua educazione all'erotismo, le confessioni impertinenti e sensuali di una Scheherazade contemporanea. Non dico altro. Altro che 50 sfumature, mille e una sfumature, molto molto bene. E tu non puoi vedere la copertina, adesso la twitto. Ah, twittami la copertina, sono curiosa. Alessandra, grazie per questa puntata a distanza del nostro appuntamento con i libri al Sabato del Villaggio. Riprenditi presto, a presto Alessandra. Prestissimo, ciao Marta. Il Sabato del Villaggio. E ci stanno arrivando davvero le foto delle vostre scrivanie. Ne abbiamo parlato con Alessandra Tedesco. Adesso vi posto anch'io la foto della mia scrivania super ordinata. Tanto ordinata che Sandro mi chiede se sono della Vergine come lui. No, sono una bilancia. Qualcuno scrive: un tizio disse ad Einstein, scrivania disordinata, la scrivania è lo specchio della mente, rispose. E tu che hai la scrivania vuota? Poi c'è qualcuno che ci scrive che sta tagliando legna con il massango. Cos'è il massango? Dove ti trovi? Che lingua è? Sono curiosa. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, ISDV è l'hashtag su Twitter, Marta Cagnola è il mio account. Adesso però è il momento di andare a parlare delle nuove tendenze. Chissà di cosa parliamo oggi con Maria Luisa Pezzali. Lampedusa, la Val di Susa, ci sono migliaia di aspiranti parrucchieri che tagliano, tingono e cotonano nascosti nelle loro case. Noi abbiamo scovato i 9 migliori, i più talentuosi aspiranti parrucchieri d'Italia. In questo salone dei sogni, completamente attrezzato, si sfideranno a colpi di forbici, pettini ed extension. Ogni settimana si misureranno con tagli e acconciature in 3 sfide. Abbiamo avuto gli aspiranti cantanti, gli aspiranti cuochi, gli aspiranti pasticceri, chiunque ha aspirato qualcosa in televisione. Adesso è il momento degli aspiranti parrucchieri. Quello che abbiamo sentito è il promo di Hair Sfida all'ultimo taglio, che è una trasmissione che arriverà da domani, domenica 29 marzo, domani sera su Real Time, il canale 31 del digitale terrestre, 131-132 di Sky, domani sera in prima serata con Costantino della Gherardesca. Ma perché ne parliamo? siamo nel nostro spazio dedicato ai consumi e alle nuove tendenze, perché la bellezza, i capelli sono sempre una nuova tendenza, una tendenza eterna? Lo chiediamo alla nostra esperta Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Maria Luisa. Ebbene sì Marta, buon pomeriggio, un saluto a tutti. Trucco e parrucco, una costante. Che meraviglia, ci si sente subito meglio. Esatto, in tema di tendenze si è appena chiuso l'evento di riferimento per il settore che è il Cosmoprof. Quest'anno tra l'altro ha registrato numeri da record. Marta, iniziamo a parlare delle tendenze, di cosa si è visto. Allora, partiamo dalle unghie. Confermate per le unghie, confermata la tendenza New Normal, ricordi? Ne avevamo parlato. Quindi rosa, trasparente, basta i colori forti. L'avevamo anticipata, unghie effetto naturale molto curato. Perfetto. Ovviamente. E a proposito di previsioni confermate, in quella stessa occasione qualche settimana fa ti avevo detto basta hipster, basta barbe. Sai quanti messaggi preoccupati qualcuno sono ci voleva querelare, sì, addirittura. Sì. C'era Daniele Bellasio terrorizzato, spaventatissimo, ha detto no, è così. Ebbene, in questi giorni ha fatto notizia uno spot, protagonista Kevin Spacey. Mm-hmm. Lo spot è di una società di investimenti, quindi non c'entra niente con il beauty, però è uno spot in cui il mitico protagonista di House of Cards dice basta barbe lunghe, hanno fatto il loro tempo. Mi sono segnata assolutamente la frase, dice si deve capire quando una moda ha raggiunto il suo apice e capire quale sarà la prossima, quindi insomma mettiamoci pace, non basta, ci sono speranze. Adesso Daniele sta arrivando, spero che ci abbia sentito. Niente, deve darsi pace, basta barbe. Tornando al Cosmoprof, dicevamo cosa si è visto: molto bio, molto naturale. I cosmetici bio vanno fortissimo in questo momento, soprattutto anche i prodotti caratterizzati da imballi ad impatto quasi zero, quindi contenuto e contenitore bio. E poi extension per le ciglia. Ma bello, mi piace come idea. Effetto naturale anche qui, e si applicano magia come un mascara. Bello, mi piace, questa la voglio assolutamente, perché poi con le ciglia finte non sono molto brava. Bella idea. Un altro mai più senza, io l'ho già battezzato così, vending machine per gli smalti. Tra poco vedremo le macchinette per gli smalti nelle stazioni, nelle toilette, pronte a soccorrerci nel momento in cui ci si scheggi lo smalto. Perfetto, ma speriamo che vendano anche i solventi, perché perfetto, quella sono già cliente. Ok, per i capelli, grande ritorno del biondo. Marta, anche qui te ne devi fare una ragione. Sì, io vabbè, tornerò bionda, che devo fare? Tornerò bionda. E per quanto riguarda i tagli, il cosiddetto bob, non lo conoscevo, mi sono documentata, è il caschetto lungo, pare amatissimo dalle star, in versione mossa alla Jennifer Lawrence, per intenderci, si chiama wob. Ah, perfetto, wob, ci faremo il wob. Ecco, e chissà se vedremo il bob o il wob nelle sfide di Hair. Hair sfida l'ultimo taglio. Guarda, qualche giorno fa hanno fatto una festa molto divertente, quelli di Real Time, per presentare questa sfida. Hanno battuto... Ti hanno tagliato i capelli? No, non mi hanno tagliato i capelli, perché avendoli io troppo corti non mi sono potuta candidare al Guinness. Hanno fatto la cofana a un sacco di donne battendo il Guinness dei primati del numero di cofane realizzate in una sera sola. Non mi sono fatta tagliare i capelli né fare la cofana, però ho incontrato Costantino della Gherardesca, insomma gli abbiamo chiesto come è stato coinvolto in questo progetto di Hair, un po' di curiosità su questa trasmissione che inizia domani sera. Eccolo qua, Costantino della Gherardesca. L'ho cercato io, perché sono anni che sono un telespettatore di Real Time. Questo programma è andato molto bene alla BBC l'anno scorso e Discovery ha deciso di farlo in Italia e fortunatamente abbiamo deciso di farlo insieme. Parliamo tanto di cucina, di moda, era incredibile che non si parlasse di questo argomento, che poi invece fa così parte delle nostre passioni. L'argomento fa parte delle nostre passioni e nel caso dei concorrenti è una vera e propria ossessione. Contrariamente ai talent, dove si tratta il tema della cucina o della musica, Hair è molto più ironico. è un programma comico, è un programma che prende in giro gli altri talent, è un programma autoconsapevole, dove il montaggio rispecchia il pensiero del pubblico. Però c'è da dire che comunque è una soddisfazione quella di avere i capelli a posto, che è estremamente democratica, perché qualsiasi sia la tua altezza, la tua età, il tuo peso, la tua taglia, rende comunque felici. Alla fine, secondo me, c'è anche questo aspetto gioioso nel tema. E chiaramente è anche un'arte. Io ti confesso, a me diverte molto, piace molto Costantino Dalla Gherardesca, perché trovo che sia, che abbia quella lucetta vivace negli occhi, quella, no, è poi davvero ironico e simpatico. Abbandoniamo Hair, abbandoniamo la sfida all'ultimo taglio che vedremo domani sera in televisione, perché adesso io sono giunta al massimo della mia curiosità settimanale per le strategie anticrisi, Maria Luisa. Eh sì, ci siamo. Strategie anticrisi, lo abbiamo detto più volte, sono anche le strategie che ci semplificano la vita. Oggi allora parliamo di economia domestica, ma 2.0, per così dire. Siamo andati a caccia dei siti che ci aiutano a trovare lo chef a domicilio, la colf, il doc sitter, il tutto a prezzi contenuti, con un click e anche per una volta sola. Li ha scovati per noi, come sempre, la direttrice di Markup e GDO Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Ciao, buon pomeriggio a buon voi. Buon pomeriggio Cristina. Eccoci qui. Sì, effettivamente aiutiamoci un po', aiutiamoci andando online e non i grandi lussi della cameriera tutti i giorni, piuttosto che anche una colfa settimanale comincia a essere piuttosto costosa. Però ci sono alcune volte che uno guarda la propria casa e dice: non ne ho proprio voglia di stirare, di lavare, eccetera. Ecco che nasce helpling.it, sono pulizie domestiche già presenti in 14 città. Si paga un po' meno se si fa un abbonamento, però con 12,90 € all'ora si possono avere tutte le pulizie che si vogliono. In più si possono prenotare come extra la pulizia del forno, la pulizia del frigorifero, fino ad arrivare anche allo stiraggio. Ti aiutano un po' a capire anche quanto spenderai, perché mettendo i metri quadri della casa, il numero di bagni, eccetera, più o meno riescono anche a farti un preventivo di quante ore ci vorranno a pulire la casetta. Diciamo che per 120 metri quadri, due bagni e una cucina, si va intorno ai 99 €. Però una volta ogni tanto si può anche farla pazzi. Oltretutto, leggevo che per Helpling in particolare sono tutte partite IVA, un po' perché l'Italia costringe a questo genere di cose, ma diciamo che il dato positivo è che in questo caso sono tutti veramente professionisti della pulizia e non si sono inventati. Passiamo invece, se dopo le pulizie decidiamo anche che forse non abbiamo tanta voglia di cucinare, però abbiamo invitato degli amici a cena o semplicemente la nostra famiglia dovrà pur mangiare, bene, ecco che c'è chefbooking.com, dove ci sono chef a domicilio più o meno su tutta Italia, il prezzo variabile, le cucine anche. Di fatto in questo caso è più, come dire, una collezione di chef di vario genere, di vario taglio. Alcuni sono della scuola di cucina, altri sono un pochino più fai da te. I prezzi variano, però si possono prenotare e scegliere anche basandosi un po' sui commenti degli altri utenti. Benissimo, il cane che non si voglia portare fuori perché piove, siamo stanchi, oppure vogliamo andare via due giorni ma non vogliamo metterlo all'hotel, ecco che è nato dogbuddy.com. È ancora, come dire, un po' a macchie di leopardo in Italia, soprattutto al nord, c'è qualcosa anche su Bologna, al sud ancora nulla, però questo offre una doppia possibilità. Da un lato quello appunto di trovare un dog sitter per il nostro amato cagnolino, dall'altro per chi cerca lavoro anche la possibilità di iscriversi come dog sitter, si chiedono molte referenze, è compresa l'assistenza sanitaria e qualsiasi tipo di pronto soccorso, direttamente prenotando online si paga con carta di credito. Dopo tutte queste stanchezze evitate, se sentiamo ancora un po' stanche, abbiamo la spa a domicilio con Call Me Spa. Questo è solo su Milano, massaggio, personal trainer e anche yoga e pilates direttamente a casa propria. Bisogna mettere il capo, la via, ripeto, per ora è solo su Milano, e meno male saltano fuori dal sito sia i trainer o le persone che fanno i massaggi, si sceglie l'ora, è più o meno abbastanza semplice, e ho visto insomma che per chi vuole prenotare la prossima settimana è abbastanza libera. Infine, cito una startup che in realtà è stata nominata tra le startup della fine del 2014, ma ancora non è partita, che si chiama Giantie, e la leggo un po' come scritta, J-A-N-T-Y-E, e in questo caso si tratta di parrucchieri, visto che ne parlavate poc'anzi, taglio di capelli, manicure e trattamenti, anche questo a casa propria, fanno anche il taglio bambini, quindi se il bambino si spaventa e non vuole andare al parrucchiere si possono chiamare, però per ora stanno raccogliendo ancora i professionisti per avviare l'attività, e questo è più o meno tutto. Bello, mi piacciono tutti, io me li sono segnati, stavo già curiosando, soprattutto quello delle pulizie, io ero qui già che mi facevo i conti quanto mi costerebbe far rinnovare la mia casa da cima a fondo. Grazie Cristina per essere stata con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Cristina. Ciao. Bellissimi questi consigli. Maria Luisa, invece, a proposito di consigli, essere avere domani? Alle 15, come sempre. Un saluto a tutti. Grazie Maria Luisa e anche al prossimo Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E mi stavo distraendo perché stavo giocando con Periscope, poi convincerò Daniele Bellasi a provarlo in diretta perché dopo le 17 è il momento di RadioTube. Intanto però ero rimasta così con un punto di domanda, cos'era El Massango che ci ha scritto un nostro ascoltatore che stava tagliando la legna, è la roncola e mi spiega che la lingua è veneto della provincia di Vicenza. Ho imparato qualcosa di nuovo. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS, chiocciola Marta Cagnola è il mio account di Twitter, l'hashtag è ISDV. Adesso però ci concediamo un'altra, non so se è una botta di nostalgia oppure no, abbiamo parlato tanto di cose un po' malinconiche, un po' nostalgiche, un po' di recuperi del passato, vabbè, chissà se in quante, dico donne non a caso, si ricordano di questa scena, di questa serie TV. Più stavo seduta a quel tavolo, più mi sentivo sola. Credete, è tremendo, 35 anni e sentirsi sola. Tu non sei sola. No, lo so che ho voi ragazze, ma... E davvero mi odio un po' per quello che sto per dire, ma... Mi sento veramente triste. Per non avere un uomo nella mia vita che si preoccupi per me. Nessun uomo speciale che mi auguri buon compleanno. Nessuna maledetta anima gemella. E non so se credere all'anima gemella. Com'era triste Carrie Bradshaw in questa puntata di Sex and the City? Era triste perché era il suo 35esimo compleanno e lei era sola. Che dramma compiere 35 anni. Chissà cosa ne pensa adesso l'attrice che interpretava il ruolo di Carrie Bradshaw, cioè Sarah Jessica Parker, che questa settimana, e io sono scioccata al solo pensiero, ha compiuto 50 anni. Ma cosa resta dopo tutti questi anni di Sex and the City? Lo chiediamo alla nostra super esperta di moda del Sole 24 Ore, Giulia Crivelli. Buonasera Giulia. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Intanto sembrano passati 2 anni e no, non è così. Guarda, purtroppo 1998-2004 2004 è andato in onda l'ultimo episodio, quindi sono passati 10 anni. E io ti dirò, sembrerò forse un po' strano, però insomma il titolo è molto eloquente. Pensate che addirittura poi in America viene chiamato SATC, cioè hanno creato l'acronimo proprio Sex and the City. Però secondo me un po' come ISDV che uso io come hashtag il Sabato del Villaggio. Esatto. SATC. Quel che resta secondo me è più legato alla moda, al piacere di giocare con la moda e all'autoironia, perché tutto sommato questa ragazza alta 1,60, non una supermodella, ci sono leggende su come aveva avuto ruolo, erano state scelte anche altre ragazze, è diventata veramente il simbolo di questo gioco, della moda come gioco, e poi naturalmente delle scarpe, perché essendo lei appunto alta 1,60 ha lanciato questa necessità tra virgolette di avere scarpe con tacchi molto alti. Sì, perché il culto delle Manolo, soprattutto delle Manolo Blahnik, delle Jimmy Choo e delle Louboutin è nato un po' con lei. Assolutamente, cioè forse tantissime persone sia in America ma anche in Europa credo non le conoscessero. Adesso Jimmy Choo è un'azienda quotata in Inghilterra e secondo me insomma ha avuto un bel ruolo Sarah Jessica Parker. Stuart Weitzman fa fare i negozi all'architetto Zaha Hadid, tutti i grandi department stores hanno piani interi dedicati alle scarpe. Questo nel 1998 era inverosimile, anche se naturalmente tutte le donne hanno sempre amato le scarpe, insomma è uscito in questi giorni Cinderella, sappiamo che il mito della scarpetta c'è sempre. Tra l'altro la stessa Sara Jessica Parker adesso ha firmato una sua linea di moda. In Italia non l'ho vista in realtà, una linea di scarpe. Sì, lei si è molto, anche qui, molto divertita. L'hanno chiamata, ovviamente lei mette il suo nome sulle cose ed è quasi un successo garantito. In passato aveva disegnato per Gap dell'abbigliamento, poi ha fatto una sua linea di scarpe e l'ultimissima cosa che ha fatto è una borsetta per Fendi che hanno presentato a febbraio, un progetto di beneficenza, perché poi lei naturalmente molti marchi che ha usato sono marchi americani, con delle mise, diciamocelo, anche un po' improbabili per uno scenario europeo, se non durante le settimane della moda, e però ha anche contribuito sicuramente a far conoscere al grande pubblico americano tanti nomi italiani che forse non erano così famosi, tra cui Valentino, Fendi. Ci sono degli episodi mitici in cui poi questi personaggi o vengono interpretati o appaiono davvero. Tra l'altro lo dicevamo chiacchierando prima di andare in onda, Giulia, se vediamo le riviste di moda, se vediamo le nostre foto, non parliamone, le mise dopo qualche anno sembrano sempre datate, succede anche con quelle di quegli anni, ma qual è stato secondo te il segreto di Sex and the City per cui si guardano le vecchie puntate e sembrano vestite in maniera sempre attuale? Beh, c'è questa mitica Patricia Field, questa costumista che, ripeto, se facesse una serie fuori dall'America probabilmente ci sembrerebbe molto strano, ma lì era talmente un mix and match ante litteram, un alternare cose che forse avremmo voluto anche noi a cose che ci facevano inorridire. Sicuramente Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, alta 1,60 m ma molto proporzionata, quindi le stava bene qualsiasi cosa sostanzialmente. Un cambiare completamente, proprio la moda come gioco, e probabilmente senza prendere quei pezzi di stagione che avrebbero un po' rovinato la cosa. Questa signora Field, veramente, forse tu l'hai conosciuta, io spero di conoscerla, perché tra l'altro poi ha continuato a lavorare su tante altre serie, e ha trovato un'alchimia che non credo, insomma, è un po' fortuna, un po' lavoro, un po' grande probabilmente lavoro sugli archivi, lavoro con gli stilisti, e ha contagiato tutti, persino Chris Knopf, Mr. Big, che ha 60 anni, by the way. Qualche giorno fa è apparsa qualche foto effettivamente un po' sale e pepe, un po' non proprio più, un po' meno big, ma sempre un bel mister. E ha confessato anche lui di essere stato contagiato da questo fascino del gioco della moda. Poi, tra l'altro, Sarah Jessica Parker, anche dopo il 2004, beh, lei qualche film l'ha fatto, ha continuato a essere un po' un'icona, e ci sono effettivamente, su internet ci sono delle gallery dove si vedono tutte le sue uscite. Però devo dire, forse il suo segreto è che non si è mai legata a nessuno in particolare. Lei continua a svolazzare da uno stilista all'altro, dando veramente questa impressione di divertirsi da morire. E lei si è conservata artisticamente meglio delle altre colleghe che, insomma, sono un po' sparite invece? Sì, ha fatto un po' di cose, un po' di film, lo sappiamo, è chiaro che in queste serie poi si resta inevitabilmente molto molto legati. Pensate a Kim Cattrall, per esempio, che era la più anziana delle quattro, no? Lei ne ha 58 di anni. Di recente ha detto che le piacerebbe filmare Sex and the City numero 3 in Irlanda addirittura, quindi c'è lo spettro del film Sex and the City numero 3. Sì, non sono stati straordinari i film, soprattutto il secondo, quindi un po' paura. Sì, insomma, hanno guadagnato tantissimo, e tra l'altro, come dicevamo, le serie continuano ad andare. Io ogni tanto me la guardo di notte su Fox Life, quindi hanno anche diritti di syndication, eccetera. E purtroppo è un po', insomma, il lato della medaglia di queste serie che durano così tanti anni e che poi dalle quali poi non ci si riesce a staccare. Pensate alla povera Jennifer Aniston, ci sta ancora provando a staccarsi da Friends, ma non so se ci riuscirà mai. Abbiamo iniziato il nostro sabato del villaggio dicendo che erano tornati gli anni 90, quindi tornerà anche il taglio Rachel e quindi Jennifer Aniston ritornerà di moda. Abbiamo festeggiato i 50 anni di Sarah Jessica Parker, abbiamo detto che a 20 anni Back for Good dei Take That, insomma, una puntata in cui ci siamo sentite un po' anziane, ma siamo sempre bellissime come Sarah Jessica Parker. Sì, Giulia, poi lei, mi dicevano, si è fatta qualche piccolo ritocchino, però devo dire ancora quell'aspetto molto da ragazzina sbarazzina. Io davvero l'ammiro molto, perché tutto sommato non aveva il physique du goal, se vogliamo, e invece è riuscita a diventare una piccola icona, e ripeto, non per la famosa storia del sesso di cui si parla liberamente finalmente tra donne, ma per questo gioco della moda. Straordinario, grazie a Giulia Crivelli per essere stata con noi. Noi ci risentiamo ancora tra poco dopo il giornale radio.